Scorre lento il traffico e la notte se ne va. Solo in questo hotel la pioggia cade, ma chissà. Lascerò la stanza e forse parte di me nelle tue mani. Io che ho giurato di non perdermi mai più nelle strade buie di un amore che non c'è. Cacciatore prede, vivevo così fino a ieri. Rimango qui o scappo via come so fare. Troppo tardi ormai per far finta di nulla. Dimmi che stanotte sarà infinita. Dimmi che domani sarai ancora qui. Basta due parole per poter sperare. Basta il tuo sorriso per ricominciare. Stare senza te, ho passato giorni a capire il perché. Ci facciamo male, poi ci ritroviamo qui, punti a capo. Rimango qui, ma questa volta voglio restare. Troppo tardi ormai per far finta di nulla. Esa.